Ma 1 o 2 giorni dopo, l'ultimo, prima del funerale, era andata in cortile Lois a prendere delle fascine per il forno. Era una sera magnifica e solenne, piena di stelle, e un improvviso senso di abbandono nell'immensità dell'universo che si rivelava toccò il cuore di Lois, che si sedette dietro la catasta di legna e pianse dirottamente. Trasalì all'improvvisa comparsa di Manassè, che aveva girato l'angolo ed era in piedi davanti a lei. Lois che piange? Oh, solo un po', disse, alzandosi e raccogliendo il mucchio di fascine, poiché aveva timore di essere interrogata da questo torvo e impassibile cugino. Con sua grande sorpresa le mise la mano sul braccio e disse: Fermati un attimo, perché piangi, cugina? Non lo so, disse, e sembrava che fosse una bambina a rispondere. Stava per rimettersi a piangere. Mio padre era molto gentile con te, Lois. Non mi meraviglio che tu sia addolorata per la sua morte. Ma il Signore può restituire decuplicato ciò che ha tolto. Sarò gentile con te, come lo è stato mio padre, più gentile ancora. Non è ora il momento di parlare di matrimoni e nozze, ma parlerò con te dopo aver seppellito il nostro morto. Lois a quel punto non pianse, ma trasalì di paura. Cosa voleva dire suo cugino? Avrebbe preferito di gran lunga che si fosse adirato con lei, rimproverandola per la sua sofferenza irragionevole, per la sua follia. Per alcuni giorni lo evitò accuratamente, il più accuratamente che poté, senza dare a vedere che lo temeva. A volte pensava che doveva essersi trattato di un brutto sogno. Infatti, anche se nella sua vicenda non vi fosse stato un innamorato inglese, anche se non vi fosse stato altro uomo al mondo, non avrebbe mai potuto pensare a Manassè come a suo marito. A dire il vero, sino ad allora non vi era stato segno nelle sue parole o nelle sue azioni che potesse suggerire una simile eventualità, ma ora che era stata suggerita, la repulsione che sentiva per lui era indicibile. Poteva anche essere buono, pio, e senza dubbio lo era, ma quegli occhi scuri e fermi, lo sguardo lento e grave, i capelli neri e lisci, la pelle ruvida e spenta. Tutto a quel punto le provocava avversione, tutto nella persona brutta e sgraziata di lui strideva sui suoi sensi, dopo quelle poche parole dietro la catasta di legna. Sapeva che prima o poi sarebbe venuto il momento di riprendere l'argomento, ma vigliaccamente tentava di rinviarlo, tenendosi stretta la sottana di sua zia, poiché era sicura che Grace Hickson avesse in mente ben altre prospettive per il suo unico figlio. E difatti le aveva, dato che era una donna ambiziosa, oltre che pia. E grazie a un tempestivo acquisto di terreni nel paese di Salem, senza grandi sforzi gli Hickson erano diventati gente ricca. In parte lo erano diventati anche grazie a un avvertito processo di accumulazione, poiché non si erano mai curati di cambiare il loro tenore di vita, dal tempo in cui si confaceva entrate di molto inferiori a quelle di cui usufruivano allora. Questo rispetto alla prosperità di cui godevano. Quanto a reputazione, ne godevano altrettanta. Nessuno poteva fare obiezioni al loro modo di vivere o di agire. Rettitudine e religiosità erano manifeste agli occhi di tutti, in modo che Grace Hickson si riteneva autorizzata a fare la pignola con le ragazze da marito, prima di trovarne una che andasse bene per Manassè. Nessuna a Salem si adeguava al suo modello ideale. Persino allora, così poco tempo dopo la morte del marito, aveva in mente di andare a Boston a consigliarsi con i pastori più autorevoli, primo fra tutti l'illustre Cotton Mather, per vedere se tra i loro fedeli potevano indicarle una giovane bella e pia, degna di divenire la moglie di suo figlio. Ma oltre all'aspetto piacevole e alla religiosità, la ragazza doveva essere ricca e venire da una buona famiglia, altrimenti Grace Hickson l'avrebbe scartata con disprezzo. E una volta che quell'esemplare si fosse trovato e i ministri avessero dato la loro approvazione, Grace Hickson era sicura che non vi sarebbero state opposizioni da parte del figlio. Sicché Lois aveva ragione nell'intuire che a sua zia sarebbe risultato sgradevole qualsiasi discorso di matrimonio tra lei e Manassè. Ma un giorno la ragazza fu messa alle strette, nel modo seguente. Manassè era uscito a cavallo per sbrigare delle faccende che, secondo il parere di tutti, l'avrebbero impegnato per l'intera giornata, ma avendo incontrato l'uomo con cui doveva trattare i suoi affari, ritornò prima di quel che si aspettavano. Quasi immediatamente notò l'assenza di Lois dalla sala dove le sorelle stavano filando. Sua madre era seduta lì accanto a lavorare a maglia. Attraverso la porta aperta poteva vedere che Natti era in cucina. Era troppo riservato per chiedere dove fosse Lois, ma silenziosamente si mise a cercarla finché la trovò nell'ampio solaio, dove già si ammucchiavano le provviste di frutta e ortaggi per l'inverno. Sua zia l'aveva mandata a controllare le mele una per una e a fare la cernita di quelle imperfette da consumare subito. Stava china, intenta al lavoro, e non si accorse della sua venuta finché, alzando la testa, lo vide in piedi davanti a sé. Lasciò cadere la mela che aveva in mano, impallidì lievemente e rimase di fronte a lui, in silenzio. «Lois!» esclamò. «Ricordi le parole che dissi quando ancora piangevamo la morte di mio padre?» Ora, in qualità di capofamiglia, ritengo di essere chiamato a sposarmi, e ai miei occhi non vi è ragazza che dia più piacere di te, Lois. Cercò di prenderle la mano, ma lei la nascose dietro la schiena e, scuotendo la testa come una bambina, quasi piangendo, disse: Per favore, cugino Manasseh, non dirmi queste cose. Sembra anche a me che dovresti sposarti, dato che ora sei capofamiglia, ma io non voglio sposarmi, proprio non vorrei. È bello quello che dici, rispose pur accigliandosi lievemente. Non gradirei prendere in moglie una ragazza troppo sfrontata, ansiosa di gettarsi nel vincolo matrimoniale, e inoltre la congregazione potrebbe parlar male di noi se ci sposassimo troppo in fretta, dopo la morte di mio padre, e forse anche adesso dobbiamo. Abbiamo detto troppo. Ma desideravo rasserenarti sulle tue prospettive future. Avrai tempo di pensarci e di abituarti all'idea. Di nuovo tese la mano. Stavolta lei la prese con un gesto spontaneo e aperto. Ti sono in debito perché sei stato gentile con me sin da quando sono arrivata, cugino Manassè, e non ho modo di ripagarti se non dicendoti sinceramente che ti posso amare come un'amica affezionata, se me lo consenti, ma mai come una moglie. Respinse violentemente la mano di lei, ma non le distolse gli occhi dal viso, sebbene lo sguardo si fosse fatto arcigno e tetro. Mormorò qualcosa che lei non capì, e allora si fece coraggio e proseguì, pur continuando a tremare leggermente e sforzandosi di non piangere. Per favore, lascia che ti dica tutto. C'era un giovane a Bedford. No, Manasseh, non riesco a parlare se ti arrabbi così. Faccio una gran fatica a parlare, e comunque. Disse che voleva sposarmi, ma io ero povera e suo padre non vuole sentirne parlare. E io non voglio sposare nessuno, ma se lo volessi sarebbe. La voce si spense e il rossore disse il resto. Manasseh rimase a guardarla con i suoi cupi occhi infossati, in cui gradualmente s'adunava un che di selvaggio. Poi disse: È impressa in me la certezza, in verità la vedo come in una visione, che tu debba essere mia sposa, mia e di nessun altro. Non puoi sfuggire a quanto è predestinato. Mesi fa, mettendomi a leggere i vecchi libri devoti, in cui la mia mente trovava diletto prima che venissi tu, non vidi lettere stampate sulla pagina dall'inchiostro dei tipografi. Vidi invece caratteri dorati e purpurei di una lingua sconosciuta, il cui significato mi fu sussurrato nell'anima. Era «Sposa Lois! Sposa Lois!» E quando mio padre morì, seppi che quel fine stava cominciando a compiersi. «È la volontà del Signore, Lois, e tu non puoi sfuggirle!» E di nuovo avrebbe voluto prenderle la mano e tirarla a sé, ma stavolta lei lo evitò con un movimento rapido. Non riconosco in questo la volontà del Signore, Manassè, disse. Non è impressa in me la certezza, come dite voi puritani, che io debba diventare tua moglie. Non sono determinata a sposarmi a tal punto da prendere te, come se fosse la mia unica possibilità, perché non tengo a te come dovrei tenere a mio marito, ma avrei potuto tenere a te e tanto come a un cugino gentile. Smise di parlare, non riusciva a scegliere le parole giuste per esprimere gratitudine e amicizia che tuttavia mai sarebbero potute divenire un sentimento più intimo e prezioso, proprio come due linee parallele non si potranno mai incontrare. Ma era talmente convinto da quello che considerava lo spirito della profezia che Lois dovesse divenire sua moglie, da sentirsi indignato per ciò che in lei sembrava resistenza a un decreto preordinato, piuttosto che realmente inquieto sull'esito. Di nuovo tentò di persuaderla che nessuno di loro due era libero di scegliere, dicendo: La voce mi disse sposa Lois, e io dissi: Lo farò, signore. Ma la voce, come la chiami tu? Disse Lois. A me non ha mai detto niente di simile. Lois, le rispose solennemente, ti parlerà. Ubbidirai allora, come fece Samuele? No, davvero non posso, rispose vivacemente. Posso convincermi che un sogno sia la verità e che le mie fantasie mi parlino, se ci penso troppo a lungo, ma non posso sposare nessuno perché mi viene ordinato. Lois, Lois, ancora non sei redenta, ma in una visione ti ho vista tra gli eletti, vestita di bianco. La tua fede è ancora troppo debole perché tu ubbidisca docilmente, ma non sarà sempre così. Pregherò perché tu veda il corso predestinato della tua vita, e intanto appianerò gli ostacoli terreni. Cugino Manassè, cugino Manassè, gli gridò dietro a Lois mentre si allontanava. Torna qui, non riesco a esprimermi con parole abbastanza efficaci. Manassè, non c'è potere in cielo o in terra che possa farmi amare te al punto di sposarti o sposare te senza amarti in quel modo. E lo dico solennemente perché è meglio che questo finisca una volta per tutte. Rimase sconcertato per un attimo. Poi alzò le braccia e disse: Dio ti perdoni la bestemmia, ricordati di Azaele, che disse: È forse un cane il tuo servo perché debba compiere questa cosa mostruosa? E andò e la fece, poiché il corso malvagio della sua vita era stabilito e designato prima ancora che si ponessero le fondamenta del mondo. E credi forse che la tua via non sarà tracciata tra i devoti, come mi è stato rivelato? Se ne andò. E per 1 o 2 minuti a Lois sembrò quasi che le sue parole si dovessero avverare e che lei, nonostante tutti gli sforzi, nonostante l'avversione per quella sorte, dovesse comunque sposarlo. E date le circostanze, più di una ragazza si sarebbe piegata al suo apparente destino. Isolata da tutte le relazioni di un tempo, senza notizie dall'Inghilterra, nella vita monotona e greve di una famiglia, con un uomo a capo, un uomo considerato un eroe da quasi tutti coloro che gli erano vicini per il semplice fatto di essere l'unico maschio della famiglia. Per la maggior parte delle ragazze sarebbero bastati questi fatti a configurare argomentazioni convincenti per piegarsi alla proposta di uno così. Inoltre, l'immaginazione aveva allora un gran peso, soprattutto in quel luogo e a quel tempo. Era credenza comune che nel corso della vita umana fossero costantemente percepibili manifestazioni di influenze spirituali, influenze dirette di spiriti benigni e malvagi. Si gettavano le sorti, interpretandole come indicazioni divine. Si spalancava la Bibbia, lasciando che le pagine si aprissero a caso, e il primo testo su cui si posava lo sguardo era considerato un segno designato dall'alto sulla direzione da seguire. Si sentivano suoni che rimanevano inspiegabili. A provocarli erano spiriti maligni, non ancora esiliati dai luoghi deserti, di cui così a lungo erano stati signori. Apparizioni oscure e misteriose erano percepite indistintamente, parvenze di Satana alla ricerca di qualcuno da poter divorare, e all'inizio della lunga stagione invernale i racconti sussurrati, le tentazioni e gli incubi di lunga data, i terrori infernali sembravano particolarmente diffusi. Era come se Salem, sotto la neve, divenisse preda di se stessa. Le lunghe sere buie, le luci fioche nelle stanze, i corridoi scricchiolanti dove si ammucchiavano oggetti difformi al riparo dal gelo pungente e dove a volte nel cuore della notte risuonava un rumore come di un corpo pesante che cade, e poi la mattina successiva ogni cosa era al suo posto. A tal punto siamo abituati a misurare i suoni raffrontandoli a noi e non all'assoluto silenzio del tempo della notte. La nebbia bianca che ogni sera si avvicinava sempre più alle finestre in strane forme come fantasmi. Tutto questo e molte altre cose ancora, come la caduta distante di alberi possenti nella misteriosa foresta che cingeva il paese, i tenui richiami di qualche indiano alla ricerca dell'accampamento e a sua insaputa molto più vicino all'insediamento dei bianchi di quanto lui o loro avrebbero voluto. Se avessero potuto scegliere, gli urli famelici di animali selvaggi nelle vicinanze dei recinti del bestiame, a Salem, tutto questo in quel memorabile inverno del 1691-92, rese a molti la vita strana, misteriosa e terrificante. La rese particolarmente arcana e spaventosa alla ragazza inglese nel suo primo anno di permanenza in America. E ora immaginate Lois, perennemente sottoposta alla certezza di Manassè sul suo matrimonio predestinato, E vedrete che non fu senza coraggio e audacia che gli si oppose in quel modo, con determinazione ferma ma anche con dolcezza. Prendete un esempio tra molti, l'occasione in cui subì una violenta emozione di poca entità a raccontarla, è vero, ma ricordate che per tutto quel giorno e per molti giorni precedenti era rimasta chiusa in casa, nella luce fosca, che una lunga tempesta di neve rendeva quasi buia a mezzogiorno. Si stava facendo sera e il fuoco di legna era più allegro delle creature che lo circondavano. I piccoli filatoi avevano ronzato monotonamente per l'intera giornata e al pian terreno la scorta di lino era quasi esaurita, quando Grace Hickson disse a Lois di andare nel solaio a prenderne dell'altro prima che la luce si spegnesse del tutto e non si potesse fare a meno di una candela per trovarlo, il che avrebbe costituito un pericolo in quell'ambiente pieno di materiali combustibili. Soprattutto allora che il gelo intenso incatenava e rinchiudeva in una dura morsa di ghiaccio ogni goccia d'acqua. E così Lois andò, attraversando impaurita il lungo corridoio che portava alla scala del solaio, poiché era lì che venivano gli strani suoni notturni di cui ormai tutti si erano accorti e di cui parlavano sottovoce. Tuttavia, si mise a cantare per farsi coraggio, a cantare, ma a bassa voce, l'inno della sera che così spesso aveva cantato nella chiesa di Bedford: Gloria a te, o Signore, in questa notte. E fu per questo, suppongo, che non sentì il respiro o il movimento di un essere accanto a sé, sinché, proprio mentre si stava caricando di lino da portar giù, sentì qualcuno, era Manassè, dirle all'orecchio: Ti ha parlato la voce? Dimmi, Lois, ti ha parlato la voce che giorno e notte mi dice sposa Lois? Trasalì e sentì una leggera nausea, ma parlò quasi subito, con chiarezza e coraggio: No, cugino Manassè, e non lo farà mai. Allora, devo aspettare ancora, rispose Rauco, come se parlasse a se stesso. Ma tanta sottomissione, tanta sottomissione. Infine, un cambiamento sopravvenne nella monotonia del lungo inverno cupo. I parrocchiani ricominciarono a chiedersi se, data l'estensione della parrocchia, non fosse indispensabile per il pastore Tappau avere un aiuto. Questa questione era già stata sollevata una volta, e a quel tempo il pastore aveva dovuto accettare l'evidenza, e dopo la nomina del suo assistente tutto era andato bene per alcuni mesi, finché nel ministro più anziano era nato un sentimento che si sarebbe potuto forse chiamare gelosia del più giovane, se un uomo pio come il pastore Tappau fosse stato ritenuto capace di nutrire una passione così empia. Comunque fosse, si erano formati due partiti. I più giovani e impetuosi in favore del signor Nolan, i più anziani e ostinati, e a quel tempo i più numerosi, tenacemente attaccati al vecchio grigio dogmatico signor Tappau, che li aveva uniti in matrimonio, ne aveva battezzati i figli e per loro rappresentava letteralmente una colonna della chiesa. Così il signor Nolan aveva lasciato Salem, forse portandosi dietro altri cuori, oltre a quello di Faith Hickson. Lei comunque da allora non era più stata la stessa. Ma in quel Natale del 1691, morti uno o due dei membri più anziani della congregazione, sistematisi a Salemma alcuni dei più giovani e divenuto più vecchio, e certi caritatevolmente supponevano più saggio anche signor Tappau, era stato effettuato un altro tentativo e il signor Nolan stava per tornare al lavoro su un terreno apparentemente spianato. Lois si era interessata vivamente a tutta la vicenda per amore di Faith, molto più di quanto lei stessa faceva, avrebbe detto chiunque fosse stato a guardare. Mentre tutti discutevano sul ritorno del signor Nolan, la ruota di Faith non girava più in fretta o più piano. Il filo non si spezzava, il colorito non cambiava e gli occhi non si sollevavano per un interesse improvviso. Ma per Lois, dopo l'allusione di Prudence, si erano chiariti sospiri e sguardi di dolorosa disperazione, anche senza l'aiuto dei canti improvvisati di Nati che in strane allegorie dicevano l'amore infelice della sua prediletta, a orecchie incuranti di cogliervi un senso comune. Tutte, tranne quelle della tenera e affettuosa Lois. A volte sentiva una strana nenia cantilenata dalla vecchia indiana, un po' nella sua lingua, un po' in un inglese spezzato, china su un tegame fumante da cui veniva un odore che, a dir poco, non era di questa terra. Un giorno Grace Hickson, sentendo quell'odore nella sala, improvvisamente disse: Natty è di nuovo all'opera con le sue pratiche pagane. Accadrà un malanno se non la si ferma. Ma Faith, muovendosi più in fretta del solito, disse qualcosa sul farla smettere, così anticipò l'evidente intenzione di sua madre di andare in cucina. Chiuse la porta tra le due stanze e si mise a rimproverare Natty, ma nessuno riuscì a sentirne le parole. In casa, tra quelle persone chiuse in sé, non ve n'erano due così legate da amore e interessi comuni come Faith e Natty. Lois sentiva a volte che la sua presenza interrompeva una qualche conversazione confidenziale tra sua cugina e la vecchia serva, eppure teneva a lei e quasi pensava che Faith le volesse più bene che non alla madre e al fratello o alla sorella. I primi due, infatti, erano indifferenti a qualsiasi sentimento inespresso e Prudence godeva a scoprirlo solo per farne un motivo di divertimento. Un giorno, Lois stava seduta da sola al tavolo da cucito, mentre Faith e Natty tenevano uno dei loro conciliaboli, da cui Lois si sentiva tacitamente esclusa, quando la porta di casa si aprì ed entrò un uomo giovane, alto e pallido, nel severo abito ufficiale del pastore. Lois scattò in piedi per amore di Faith con un sorriso e uno sguardo di benvenuto, poiché doveva trattarsi del signor Nolan, il cui nome era stato a lungo sulla bocca di tutti e il cui arrivo era atteso per il giorno precedente. Sembrò lievemente sorpreso dell'accoglienza sollecita e cordiale di quella straniera. Probabilmente non aveva sentito parlare della ragazza inglese che era entrata a far parte della casa in cui precedentemente era ricevuto con rigida formalità e vedeva solo facce gravi, solenni, severe o cupe, molto diverse dal sorridente viso a fossette che arrossiva dandogli un innocente benvenuto, quasi con l'espansività di una conoscenza di lunga data. Lois, dopo averlo invitato a sedersi, andò in fretta a chiamare Faith, senza dubitare per un attimo che il sentimento di sua cugina per il giovane pastore fosse reciproco, sebbene non riconosciuto forse da entrambi nella sua intensità. Faith, disse allegra e senza fiato, indovina, no! Contenendosi e assumendo un'aria inconsapevole di qualsiasi significato particolare annesso alle sue parole, il signor Nolan, il nuovo pastore, è nella sala. Ha chiesto della zia e di Manasseh. La zia è andata alla riunione di preghiera del pastore Tappau e Manasseh è fuori. Lois continuò a parlare per dar tempo a Faith, che alla notizia si era fatta mortalmente pallida, mentre i suoi occhi incontravano con uno sguardo di timore stupito gli occhi penetranti e astuti della vecchia indiana, ricolmi di un soddisfatto senso di trionfo. Vai! Disse Lois, lisciando i capelli di Faith e baciandole la guancia bianca e fredda. Se no, si chiederà perché nessuno vada ad accoglierlo e può darsi che pensi di non essere il benvenuto. Faith, senza una parola, andò nella sala e chiuse la porta. Natty e Lois rimasero insieme. Lois era felice come se un evento fortunato fosse capitato a lei. In quel momento la paura crescente dell'ostinazione selvaggia e minacciosa con cui Manasseh persisteva nella sua richiesta, la freddezza della zia, la sua solitudine, tutto fu dimenticato e quasi si sarebbe messa a ballare dalla gioia. Natty rideva a voce alta, borbottando e ghignando tra sé: vecchia donna indiana, grande mistero, vecchia donna indiana mandata qua e là, andare dove dicono, dove sente con sue orecchie, ma vecchia donna indiana. E qui si drizzò e l'espressione del suo viso si trasformò: sa come chiamare. E poi uomo bianco deve venire, e vecchia indiana mai detto, e uomo bianco mai sentito con sue orecchie. Così mormorava la vecchia grinzosa. Nel frattempo, nella sala le cose non stavano procedendo come lui si immaginava. Faith sedeva persino più quieta del solito, occhi bassi, poche parole. Un osservatore attento avrebbe potuto notare un lieve tremito delle mani e contrazioni sporadiche di tutta la figura, ma in quell'occasione il pastore Nolan non era un osservatore attento, era assorto nei suoi piccoli stupori, nelle sue vaghe perplessità, era lo stupore dell'uomo sensuale che si chiedeva chi potesse essere la bella straniera che al suo arrivo era sembrata così felice di vederlo, ma che era scomparsa subito, evidentemente per non ricomparire. In realtà, tendo quasi a credere che anche la sua perplessità fosse quella dell'uomo sensuale, piuttosto piuttosto che del pio ministro di culto, visto il dilemma in cui si trovava. Era in uso a Salem, come abbiamo già visto, che il pastore che si recava in una casa, per quella che in altri tempi e tra altra gente si sarebbe chiamata visita pomeridiana, innalzasse una preghiera per l'eterna prosperità della famiglia. Ebbene, ci si aspettava che la preghiera si adattasse al carattere, alle gioie, ai dolori, alle necessità e alle debolezze dei presenti. Ed ecco che lui, un giovane pastore, si trovava lì solo con una giovane donna e pensava, pensieri vani forse, ma comunque molto naturali, che le congetture sul carattere di lei, inevitabilmente sottintese nella supplica particolareggiata appena descritta, sarebbero state estremamente imbarazzanti in una preghiera tête-à-tête. Non saprei dunque se dipendesse da stupore o da perplessità, ma ad ogni modo non diede un gran contributo alla conversazione per qualche tempo e infine, con un repentino e improvviso impeto di coraggio, tagliò il nodo gordiano facendo la consueta proposta di pregare e aggiungendovi la richiesta di riunire chi si trovava in casa.